Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera e buon Natale a quanti ci ascoltano. Questa sera facciamo una puntata un po' speciale. Non parliamo di un libro, ma parliamo di tanti libri. Non parliamo di una singola opera, ma parliamo di chi i libri li costruisce. Parliamo con un editore. Buonasera ad Aldo Canovari. Buonasera. E Aldo Canovari è un editore ed è fondatore, presidente della casa editrice Liberi Libri di Macerata. Una casa editrice che, come dice il nome, è una casa editrice che si rivolge soprattutto a una pubblicistica liberale. E perché Canovari questa scelta di fare una casa editrice e di fare una casa editrice che si occupi dei principi, dei classici del liberalismo? Questo discende da una mia formazione che parte da tanti anni, è stata condivisa con un mio caro amico Carlo Cingolani, l'avvocato Cingolani, che è stato peraltro sindaco, bravissimo sindaco di Macerata, di altra formazione, diciamo più cattolica, del liberalismo cattolico, e abbiamo deciso di mettere in piedi, era nel 1990, questa iniziativa. L'intento iniziale era proprio quello di mettere a disposizione del lettore italiano, del pubblico, una serie di testi che non erano stati tradotti mai, addirittura a distanza di 2 secoli e mezzo, quindi partiamo dal pensiero illuminista e pre-illuminista, e quindi farli conoscere agli italiani. Ecco, tra l'altro uno degli ultimi libri è quello di Vilfredo Pareto, Il mito virtuista della letteratura immorale, ha un'introduzione di Franco De Benedetti, ma insieme a questo tanti altri libri in una serie di collane. Ecco, una di queste collane, forse la principale, si chiama Oche del Campidoglio. Come sì, mai? Con evidente richiamo alla vecchia leggenda romana, insomma, le oche che si mettono a starnazzare e salvano, avvisano dei pericoli che sono imminenti. È stato così lo spunto che ha dato il nome alla collana, e l'abbiamo iniziata proprio con un testo che risaliva al 1713 di Anthony Collins, Discorso sul libero pensiero, che è un manifesto libertino pre-illuminista mai tradotto stranamente in Italia, solo stralci erano stati tradotti, quindi abbiamo voluto lasciare questo segno che indirizza proprio il senso, il colore di tutta la collana. Il Collins, un deista che si trovava nei testi di filosofia a piè di pagina, in nota insieme a Toland e Tillan, e quindi siamo partiti dal 700 in avanti, tornando anche indietro con testi sempre di impostazione di un liberalismo a tutela proprio dell'individuo, nella consapevolezza che stavamo attraversando un tempo in cui l'individuo veniva spossessato di se stesso dai poteri statali. Ecco, uno degli ultimi libri è dell'economista francese Pascal Salin, La tirannia fiscale. Lei, sì, prima di fare l'editore, mi pare si occupasse di diritto tributario. Sì, la mia formazione è, diciamo, una formazione classica, e poi sono passato al diritto all'economia, e in particolare mi sono formato in diritto tributario, ho continuato a coltivarlo anche, peraltro, ahimè o per fortuna, facendo il giudice tributario per ben 24 anni, quindi ho maturato in trincea un'esperienza molto formativa, insomma, che mi ha messo a contatto proprio con il rapporto fra Stato e cittadino, un rapporto piuttosto problematico. Ecco, problematico, per dire, è una parola, diciamo così, elegante. Lo Stato molto spesso è oppressivo con il cittadino. Assolutamente. Sul fronte delle tasse, sul fronte dell'imposizione, spesso c'è addirittura una doppia o una tripla imposizione: si impone sul reddito, poi si impone sul risparmio, poi si impone sui frutti del reddito e del risparmio. Quindi anche i suoi libri che lei pubblica sono un po' in questa prospettiva di cercare di far riflettere sul fatto che uno Stato oppressivo non è un buono Stato. Assolutamente, e al di là e oltre al dato essenziale dell'elevatissima pressione fiscale, è la vessazione fiscale che caratterizza l'ordinamento italiano. E a questo riguardo, ecco, così mi sono impegnato anche a sottolineare alcuni aspetti linguistici che sono importanti. Gliene cito uno, l'ho chiamata io frode linguistica, frode fiscale, con il termine accertare, questo l'ho sperimentato, ripeto, in trincea, e accertamento. i mass media identificano l'evasione, e questa è una scorrettezza contenutistica. Formalmente è corretto, perché l'ordinamento chiama accertamento la pretesa tributaria, e quindi il pubblico identifica l'evasione con quello che l'Agenzia delle Entrate ritiene, presume, pretende sia stato evaso. Il più delle volte non è così. Dalla mia esperienza, ma non solo la mia, è quella media italiana, in sede di contenzioso tributario accade ormai da decenni che a più del 60% della materia contenziosa si risolve con vittoria del contribuente, il che significa che identificare con l'accertato, l'accertamento, l'evasione non è corretto, e quindi questo può prestarsi ad una manovra diversiva dei governi, i quali dirottano l'attenzione del cittadino dall'eccesso di spesa pubblica come causa principale del dissesto finanziario e del disavanzo all'evasione tributaria. Quindi questa è una manovra, diciamo, antica, politica, certo, di dirottamento dell'attenzione. Si chiama in strategia militare la manovra diversiva. Ecco, possiamo forse citare un altro libro che parla proprio della tassazione, quello di Charles Adams, L'influsso della tassazione sulla storia dell'umanità. Ed è un testo che tratta una materia sconosciuta, pressoché sconosciuta, sicuro, agli italiani, cioè quanto possa aver inciso nello sviluppo della civiltà, nello sviluppo della politica e della politica militare di tutti i paesi, l'elemento, il dato, la variabile tributaria. È una carrellata di questo tributarista, questo studioso americano, che parte dalle civiltà sumeriche fino ad oggi, esaminando qual è stato l'impatto nelle rivoluzioni, rivolte che poi sono diventate rivoluzioni, che hanno creato e costituito paesi come gli Stati Uniti d'America, come tantissimi altri, delle politiche tributarie, gli eccessi, le vessazioni, le angherie tributarie hanno condotto il più delle volte a sommovimenti. E ho la sensazione, le dico, che in questi ultimi tempi il nostro paese stia attraversando un momento che potrebbe anche declinare e torcere verso situazioni piuttosto gradevoli. Ecco, speriamo, siamo a Natale, dobbiamo essere tutti un po' più buoni, essere un po' ottimisti. Comunque ricordiamo il titolo, Charles Adams, L'influsso della tassazione sulla storia dell'umanità. Stiamo andando verso la conclusione. Se lei dovesse salvare un libro di quanti, dei tanti libri che lei ha pubblicato, quale salverebbe? Mi è molto Certo, con la morte del cuore. Allora, diciamo così, quale criteri temporali, questa ripubblicazione del mito virtuista di Pareto a distanza esatta di un secolo, anche perché è il centesimo volume della collana Oca del Campidoglio, con una bella introduzione di Franco De Benedetti, tocca tematiche etico-morali, ma anche economiche, quindi protezionismi etici e protezionismi economici sono strettamente collegati e concettualmente collegati. Il tema è sempre quello: lo Stato che ritiene che il cittadino sia un interdetto giudiziale che ha bisogno di essere guidato, istruito, disciplinato, sia sul piano dei contenimenti dell'economia che di quelli etici. Questo aiuta anche forse a riscoprire un economista italiano come Vilfredo Pareto, anche se ha vissuto a lungo all'estero come altri economisti italiani, e poi è importante appunto per riscoprire anche una scuola italiana di pensiero che è stata molto forte, ma che poi è stata spesso dimenticata, perché queste idee paretiane sullo sviluppo della scienza economica forse non sono molto praticate da chi governa. Grazie ad Aldo Canovari, buon Natale. Grazie a lei, auguri. Buon Natale anche a quanti ci ascoltano, così come diciamo buon Natale a Filippo Reggi in regia e a Stefania Tagliaferri in redazione. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora auguri.